Il buon caro Bob, Bob Seger, si sente come un numero. Sì, dove vai? Mangiare anche a mo'? Stai già mangiando? Bocca... un attimo e ritorno. Ritorni, vai, vai a riprenderti, ma avete lasciato qua in mezzo al delirio, numeri che ci sono, numeri che vanno, telefoni che squillano, sentirsi come un numero, diceva Bob Seger, i numeri ve li do io. 335-100-7777, questo numero è il nostro SMS. La mail è più, forse più semplice, marco@rockfamily.it. Siamo in contatto diretto alle 9:04 primi, insieme a Marco Gravelli su Rock FM iniziamo il nostro spazio consueto di 3 ore sino alle ore 12 per questa giornata di giovedì. Doppio 2 è il 22 di maggio, un saluto naturalmente a coloro e un augurio a tutti coloro che compiono gli anni in questa giornata, e tra i 1600 iscritti già e oltre, 1601 iscritti sul sito rockfamily.it, oggi il Lolloco 27 anni compie. Se è all'ascolto, tanti tanti auguri a lui e auguri naturalmente anche agli altri ascoltatori. Come sempre anche per quest'oggi avremo uno spazio dedicato ai compleanni di questa giornata, qualche notizia dall'almanacco del rock, lo spazio dei concerti, il videogame Viking per Xbox 360 che oggi non mi scorderò assolutamente di regalarvi. Con la nota di Follow You, Follow Me, continuate a seguirci, lo so che siete affezionati a noi, che ci siete, vi ringrazio. Saluto Nico, anzi Nino, che dice: ti ascolto da quando eri a Radio Peter Flowers, che tristezza non sentirvi più. Dai Nino, vedrai, vedrai che magari si potrà, non lo so, però magari ci ritroveremo. Le strade del rock and roll sono infinite. Un saluto anche allo Sbarone che dice: ormai tutti i DJ hanno una delle mie magliette, se ne vuoi una anche tu sarei felice di regalartela. Grazie, non so di che cosa consiste la maglietta, ma ben felice di averla, quindi ti ringrazio. Ciao Marco, eri bello all'Alcatraz, insomma. Zio Point dice: lei molto brava e bella, il gruppo bravo, grazie del biglietto che mi avete regalato. Dunque, ieri non ero all'Alcatraz, non c'ero io all'Alcatraz, ieri sera stai, penso, parlando del concerto di Tarja Turunen. Lei brava e bella, questo lo sappiamo, il gruppo bravo, bene, quindi suppongo, perché sto leggendo l'SMS che mi arriva al volo, è praticamente uno dei nostri ascoltatori che ha vinto un biglietto per assistere al concerto di Tarja Turunen, e questo mi fa piacere. Poi Schiss da Scandicci, provincia di Firenze: ciao Marco, ho compiuto gli anni da poco e mi mancano solo i vostri auguri, anche se in ritardo. Tanti auguroni Schiss, buona giornata a te. Poi ancora una volta siamo i Real Project Band, una tribute band dei Genesis, visto che li abbiamo appena ascoltati, e suoneremo alla Casa del Popolo di Lodi sabato 24, firmato Luke. Bene, questi sono tutti gli SMS che stanno giungendo al volo in questo istante. Dopo soli 5 minuti del nostro programma arriva anche il nostro primo Trisdassi con Uriah Heep, Twisted Sister, Velvet Underground. I'm

Dolci in chiusura di questo Tris che ha visto protagonisti e la formazione degli Urahip con Free Me, la band dei Twisted Sister. E a proposito è arrivato anche un SMS da parte di Vanni, bassista degli Sniders, tributo ai Twisted Sister in quel di Firenze. E ormai di tutte le band esiste una tribute, è veramente difficile trovare una band che non abbia una tribute. Fungo mi chiede se ci sarò sabato sera in quel di Pisa Pontedera. No, sarò il primo di giugno con tutti gli altri alla Flog di Firenze. Invece a Pontedera la Ragenza sarò il 6, venerdì 6 giugno, insieme a Claudia. Quindi, caro Fungo, ti ho dato tutte le delucidazioni in merito. 9:20 minuti primi, andiamo a segnalare il compleanno di questa giornata. Non ce ne sono moltissimi, beh, lui è importante. 22 di maggio nasce Mr. Morrissey, 1959 l'annata. La sua prima band la conoscete tutti quanti, almeno penso, cioè la formazione è quella degli Smiths. Il compleanno del giorno. Is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So is there something you'd like to try? Is there something you'd like to try? Ask me, I won't say no, how could I? Spending a warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the bomb. Then it's the bomb that will bring us together. So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me. Oh, il compleanno di Mr. Morrissey, nato quest'oggi, 22 di maggio del 1959, The Smiths, che abbiamo riproposto con le note di questa canzone dal titolo Ask. Mi chiedono se il Puma di Lambrate, alias il buon Fabio Treves, è ancora in giro. In giro nel senso che è in giro, se n'è già andato, però probabilmente potrebbe tornare, mi sembra di aver capito, domattina ancora insieme ad Ariele in, nello spazio mattutino. It's only rock and roll, but I like it, dalle 7 alle 9. Ed ora Jerusalem, Emerson, Lake and Palmer. And did those feet in ancient time walk upon England's mountains green? And was the holy Lamb of God on England's pleasant pastures seen? Shine forth upon our clouded hills. And was Jerusalem builded here among these dark satanic hills? Degli Emerson, Lake & Palmer. Ieri nell'ultima mezz'ora abbiamo avuto Oscar, il cantante, ospite Oscar, il cantante degli Statuto, e si è parlato di ska, e anche quest'oggi si parla di ska, perché il 22 maggio del 1982 il gruppo ska inglese, in Madness, sale al primo posto delle classifiche con un'antologia intitolata Complete Madness. Monster!